Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, sono le 11:12 e noi siamo insieme, benvenuti. Abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica e Luca Rinaldi in redazione e assistenza. Ci sono cose di cui noi faremo volentieri a meno. Altre che ci imbarazzano, altre ancora che viviamo come un'ingiustizia. Succede nella vita, nelle nostre relazioni di lavoro, di amicizia, d'amore, ma succede anche davanti allo specchio, con i brufoli ad esempio, inutili, antiestetici e fortemente imbarazzanti, tanto che viene da chiedersi perché proprio a me. L'acne è un problema molto diffuso e sul quale esiste ancora oggi molta disinformazione. Per capirlo, credo che occorra esserne direttamente o indirettamente coinvolto. Chi li ha avuti da ragazzo ricorderà i tentativi, a volte inutili, goffi, di mascherare i brufoli e sicuramente lo sguardo dei compagni, le battute, i soprannomi. Chi è genitore di un ragazzo acneico conosce bene la sofferenza e a volte, lasciatemi dire, la disperazione che questi segni sulla pelle provocano nel cuore e nell'autostima dei ragazzi. Ma c'è una buona notizia. Noi vogliamo sempre darvi buone notizie perché vogliamo farvi stare bene, parlare di cose belle. L'acne si cura, guarisce. E questo lo dico anche alle donne che, nonostante non abbiano più l'età, vedono comparire o ricomparire sui loro volti, su cui magari si disegnano leggerissime le prime rughe, gli odiati brufoli. Non disperate, ma restate, care amiche, sintonizzate, perché oggi troveremo la soluzione che, come sempre, passa attraverso una buona e seria informazione. Mi spiace sottolinearlo, ma così. In linea in studio con me la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa a Milano e presidente di Skineco. Bentornata, dottoressa. Grazie mille, buongiorno a tutti. E in linea con noi abbiamo il professor Stefano Veraldi, professore associato presso la clinica dermatologica dell'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Serri, non uno, ma addirittura due dermatologi. Qua c'è un affollamento di medici. Ma serve proprio un medico, uno specialista per affrontare questo problema? Non c'è il rischio di esagerare per una manciatina di brufoli? Dunque, assolutamente no. Servono non uno, ma più specialisti. Tra l'altro saluto Stefano Veraldi, dermatologo che è fa parte di questa associazione importante che è l'Acne Board, organizza questo congresso, lo dico io, ti introduco io Stefano, questo Grazie. Straordinario congresso di cui poi parlerà Nicoletta, tutto incentrato sull'acne, dove non ci saranno due dermatologi ma ci saranno decine e decine di dermatologi a parlare della dermatosi più frequente che viene all'osservazione del dermatologo, della dermatosi che va affrontata molto bene sin dal suo insorgere, perché può guarire, e se non affrontata bene può lasciare strascichi non solo sulla pelle sotto forma di cicatrici, ma soprattutto nella psiche e nell'anima, perché le cicatrici più brutte dell'acne sono quelle che lascia proprio nell'anima. 800 24 00 24 se volete intervenire, profilo Facebook, messaggi al 349 238 6666, essere benessere @radio24.it. Allora, vi ho detto tutto per entrare a far parte della nostra tavola, del nostro salottino. Professor Veraldi, quindi l'acne è più che un inestetismo, ma può passare da sola, perché in fondo l'acne è sempre esistita e anche passata magari in tempi in cui creme, lozioni e farmaci non esistevano. Sì, l'acne può guarire spontaneamente, però purtroppo può durare molti anni. Cominciando generalmente a 12-14 anni, può guarire spontaneamente tra i 18 e i 22, quindi addirittura in alcuni casi anche 10 anni può durare, però può guarire spontaneamente. Il problema di cui ha già parlato la dottoressa Serri, però, sono gli esiti dell'acne, cioè le cicatrici, che in non rari casi sono frequenti, profonde, diffuse, e oltre alle spalle e alla schiena colpiscono anche molto spesso il volto. Dottoressa Serri, l'acne compare sempre prima nei ragazzini, si vedono anche bambini fine delle elementari, sì. Primi anni delle medie, già con questi segnetti, questi brufolini che sembrano a volte anche sottopelle, no? Però si ripresenta o compare per la prima volta sempre più spesso anche sulle pelli non più giovanissime, e sono soprattutto le donne a trovarsi nella sgradevole situazione di fare i conti con le prime rughe e questi maledetti brufoli, insomma il danno e la beffa. spavento, sono io che mi dovrei spaventare. Hai la faccia che sembra un minestrone con le gambe. Intanto questa che ho su è una crema di bellezza. Tu la mia pelle te la scordi. Ah, io la tua pelle me la scordo? Brava, brava, brava. Valeria, hai la pelle talmente lucida che sembri il pavimento di mia nonna dopo che ha passato la cena sul marmo. Intanto non sono certo qui per farmi insultare da te. E poi cosa ci fai tu nel mio specchio? Che cosa ci faccio nel tuo specchio? Io rifletto la tua immagine. Anzi, fammi un favore, appannami. Così ti spiego quanto sei brutta e almeno non ti vedo. Tu pensi che sia semplice con questi cetrioli sulla faccia? Ah, per te non lo so, però so che i cetrioli sono in rianimazione, poverini. No, aspetta, non lo fare! Se rompi lo specchio sono 7 anni di sfiga. Vabbè, che peggio di così. Dottoressa Serri, davanti allo specchio sì. Ci sono tante donne che... Donne, disperazione. Io infatti a tutte le persone che sottovalutano l'acne e dicono ma cosa vuoi che sia, auguro una cosa, di svegliarsi una mattina col volto cosparso da brufoli, con una faccia, come dicono, da pizza, e poi vediamo come si comportano, perché non c'è niente come provare a avere addosso delle cose che non si sono scelte e sentirsi pure deridere, dire ma cosa vuoi che sia, non ne muori. Certo, le malattie della pelle non fanno morire, ma possono impedire di vivere bene, come la ragazzina. Per cui certo oggi l'acne viene anche più frequentemente in donne adulte, sia donne che magari hanno avuto l'acne da ragazzine e si ripresenta chissà come mai in età adulta, sia persone che non hanno mai avuto acne, mai sofferto d'acne e dicono com'è possibile, non ho mai avuto niente, adesso mi vengono questi elementi che in genere sono nodulari, profondi, nella zona proprio, come dicono i francesi, en collier de barbe, cioè nella zona della mandibola e vicino al collo. Molto spesso sono acne legate a cattivi trattamenti, a cattiva gestione della propria pelle, cioè a uno skin care sbagliato, donne che iniziano a usare creme antirughe, a fare trattamenti per prevenire l'invecchiamento non adatti alla loro pelle, a mettersi prodotti non adatti, quindi acne cosmetiche. Ci sono sempre più spesso anche intolleranze alimentari che possono manifestarsi anche con queste infiammazioni follicolari simili acneiche. E poi c'è lo stress che è notevole nelle donne d'oggi. Lo stress altera il sistema neuro, psico-neuro-endocrino e per cui ci sono delle reattività e si manifesta a livello cutaneo. Non è solo lo stress, chiaramente, ci sono a volte delle alterazioni ormonali, delle alterazioni endocrine che è sempre opportuno valutare. Per questo che da soli è molto difficile gestirsi. Venirne a capo. È sempre bene affidarsi a un medico e fare un percorso di... anche un percorso un po' investigativo per vedere che cosa scatena queste eruzioni acneiche che non sono affatto rare. Professor Veraldi, la dottoressa Serri l'ha anticipato, ci sarà un grande convegno in questi giorni a Milano in cui si parlerà di acne, spero che lei ci anticiperà le novità più interessanti, ma prima voglio passare in rassegna alcune notizie che si leggono sul web per capire se ne parlerete anche voi al convegno e soprattutto che validità scientifica hanno queste soluzioni che vengono proposte. La prima riguarda un cerotto che potrebbe essere disponibile in tempi brevi, è un cerotto high tech da applicare la sera, da togliere la mattina, e questo cerottino sarebbe in grado di produrre un piccolo campo elettrico che uccide i microorganismi coinvolti nell'avanzamento dell'acne. Professor Veraldi, lei lo conosce? Sì, lo conosco. Si tratta di uno studio in fase 2, quindi uno studio ancora indietro, diciamo. Si dice che questo cerotto potrà essere commercializzato tra 2 anni. È uno studio israeliano. Sì. Se ne sa poco o nulla perché il principio attivo di questo cerotto è una molecola brevettata che si chiama Oplon, ma non si sa che cosa contenga questa molecola. Direi un giudizio a caldo è questo. Questo cerotto fa a pugni con un principio di base dell'utilizzo della terapia topica, della terapia locale nell'acne, ossia in un giovane con l'acne tutto il volto deve essere trattato con il farmaco, perché il farmaco agisce sulle lesioni presenti, ma ha un effetto preventivo sulle potenziali future lesioni. Sì. e quindi questo cerotto tratterebbe solo le singole lesioni presenti. Ho capito, quindi ci dovrebbe essere un cerottone, una maschera, sì, esatto, più che un cerotto. Dottoressa Serri. Mi viene un po' da sorridere a sentire parlare di cerotto e campo magnetico, perché vabbè, io ho un padre, è morto, un grande dermatologo, Ferdinando Serri, classe 1916, e lui ha sempre consigliato, ma me lo ricordo sin da bambina, quando c'era un brufolo, diceva: mettiti un pezzo di cerottino, taglialo tondo, quadratino, e copriti il brufolo. Sì. L'asfissia causata dal cerottino, quindi non, sì, dalla parte della garza, proprio il cerottino, faceva benissimo, faceva riassorbire il brufolo, certamente. Quindi mi fa ridere, e questi arrivano, parlano di principi attivi, campi magnetici, già il cerottino da solo funziona, quindi già possiamo già utilizzare il consiglio di suo papà. Ma certo, io l'ho sempre utilizzato e lo do a mia volta, però non funziona nell'acne, funziona in chi ha il singolo brufoletto, che viene sempre, come diceva, quando devi andare ad una festa, no? Come diceva giustamente il professor Veraldi, l'acne si cura in toto, non si cura brufolo per brufolo. È come se una persona fosse cicciona e si curasse solo un distretto di corpo. Adesso faccio dimagrire questa gamba. Senta, dottoressa Serri, un'altra notizia che circola molto sul web riguarda il latte arricchito di lattoferrina. Che cos'è questo latte fermentato e perché questa aggiunta potrebbe fare la differenza? È uno studio coreano. Sì, ecco, appunto. Non ci piace? No, servono tanti brevetti sempre. La lattoferrina è una glicoproteina che lega il ferro e quindi ha dei ruoli sia nella riduzione apparentemente della quota batterica. Stefano magari può intervenire se conosce meglio l'attività della molecola. Sia da sempre si sa che comunque carenze di ferro possono scatenare eruzioni follicolari acneiche, questo è noto da tempo, ripeto. Sempre insegnamenti. Però addizionare il latte di lattoferrina mi sembra un assurdo. Semmai si usa integratori ideali di lattoferrino o ferro, oppure si può anche applicare topicamente. Però l'idea del ferro certamente ci piace per i brufoli. No, ma certamente quando c'è un'acne occorre valutare i parametri ematochimici, ovvero fare gli esami del sangue e valutare anche sideremia, trasferrina, ferritina, è abbastanza importante. Insomma, i medici non riusciamo a toglierceli di torno. Ah, certo che no. Ahimè. Dateci un senso. Ad aiutare le pelli acneiche però arriva anche un'alga dai fondali della Gran Bretagna, un'alga bruna, il suo estratto sotto forma di crema sembrerebbe essere davvero utile. Qua abbiamo una fonte certa, perché in linea con noi abbiamo il professor Enzo Berardesca, responsabile della dermatologia clinica del San Gallicano di Roma, che ha effettuato uno studio clinico proprio su quest'alga. Professore, buongiorno. Ci porti buongiorno. Buone notizie. Buongiorno a voi. Innanzitutto l'alga non è britannica ma è giapponese, perché il prodotto è fatto da un'azienda giapponese che attualmente è in vendita sul mercato inglese. Sì, però la spacciano come l'alga della Gran Bretagna. Ah, quello non lo so. E noi abbiamo fatto questo test clinico su una cinquantina di soggetti. È innanzitutto un prodotto cosmetico, quindi non è un farmaco e non deve sostituire il trattamento farmacologico dell'acne, che noi dermatologi ovviamente consigliamo sempre nei casi in cui è indicato. Può essere indicato per trattare acne molto, molto lievi dal punto di vista appunto puramente cosmetico. Noi abbiamo fatto questo trial clinico su un gruppo di 50 soggetti contro placebo, quindi contro la stessa formulazione, senza questo principio attivo, insomma di fatto senza quest'alga, e si è visto effettivamente che c'era una differenza statisticamente significativa nel numero delle lesioni non infiammatorie e delle iniziali papule in questi soggetti, in quelli trattati col principio attivo. Quindi si può dire che insomma una certa efficacia. Una certa efficacia ce l'ha adesso, però in Italia non c'è ancora, arriverà? In Italia non c'è, non si sa se arriverà o meno, perché appunto viene da lontano. Viene da lontano, ma se uno fa un salto in... Non nell'immediato futuro. ecco. Ecco, però magari se uno abbiamo fa... tante altre cose. Abbiamo tante altre cose. Molto interessante, dottoressa Serri, arrivano già tanti messaggi, ma allora per i foruncoli va messa una parte di cerottino tagliata, ma con garzino, senza garzina? Senza garzino, proprio il cerotto... L'appiccico. Allora, professor Berardesca, io la ringrazio, la saluto. So che parteciperà anche lei a questo grande convegno milanese. Quindi verrà a respirare un po' di aria milanese. Ci vediamo nella nebbia. Ma non c'è nebbia, c'è il sole. Anche a Roma c'è il sole. Bene, adesso voi restate con noi, restate sintonizzati perché parleremo di pulizia della pelle, di alimentazione. Un ascoltatore mi scrive che quando ha smesso di bere il latte la sua acne è scomparsa e ci scrive: è possibile che gli ormoni contenuti nel latte derivati possano causare la comparsa di acne? Voi avete trovato, avete sperimentato che magari eliminando un alimento dalla vostra dieta la vostra pelle è rifiorita, nel senso che è sparita l'acne, è diventata più bella? 800 24 00 24 Mercati Meteo e poi di nuovo qui. Quando i brufoli ti avvelenano la vita, questo è il tema di oggi. Se vostro figlio sta lottando coi brufoli, piccole ciste, punti neri, se invece il problema ce l'avete voi, chiamateci, le cure ci sono. E allora noi proseguiamo. 800 24 00 24, ci chiama Brigitte dalla provincia di Pordenone. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, io non ho mai avuto brufoli, nemmeno quando ero ragazza. Sì. Poi l'anno scorso ho dovuto prendere la pillola per gestire un ciclo molto abbondante. Sì. E mi sono venuti fuori i brufoli intorno alla bocca, che ho dovuto perfino smettere questa benedetta pillola, perché oltre a questi brufoli mi faceva andare fuori dai gangheri. Sì. Praticamente l'umore. Sì. E adesso mi ritrovo sempre coi brufoli. Quando mi sta per arrivare il ciclo sono piena intorno alla bocca. Professor Veraldi, perché tante volte la pillola, in alcuni casi, naturalmente alle ragazze, i ragazzi non possono prenderlo, viene proprio suggerita quasi come una terapia e a volte funziona, e invece Brigitte prende la pillola e si ricopre di brufoli intorno alla bocca. Perché? Sì, la risposta potrebbe essere molto lunga e articolata. Risponderei in questi termini. Possono essere utili nell'acne le pillole che contengono una quota più o meno grande di antiandrogeno. Sì. Oltre all'estrogeno. Sì. Tuttavia, secondo le ultime linee guida terapeutiche internazionali, la pillola non è considerata di prima scelta in nessuna forma di acne. Deve essere però assunta quando si prescrive un particolare farmaco per l'acne grave. Sì. Che è l'isotretinoina orale. In questi casi è d'obbligo utilizzare la pillola. Aggiungo una cosa, la risposta alla pillola non è assoluta, abbiamo visto il caso di questa signora, e spesso è abbastanza lenta, cioè ci sono ragazze che si aspettano risultati terapeutici immediati, mentre invece possono passare 3, 4, anche 5, 6 mesi prima di un miglioramento. Abbiamo Lorella che ci chiama da Padova, 800 24 00 24. Lorella, buongiorno. Lorella? No, forse Lorella è caduta, la riprenderemo. Dottoressa Serri, molti ascoltatori mi chiedono di fare chiarezza e noi volevamo farlo, infatti abbiamo anche in linea la dottoressa Paola Reverso, nutrizionista. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei è della squadra Un Pizzico in Meno, Tanta Salute in Più, ma oggi entra anche per aiutare i nostri amici da casa a tenere una dieta che sia, no, benefica per la pelle. Dottoressa Serri, abbiamo anticipato il latte. Il latte può in qualche modo essere responsabile di una fioritura? Beh, più che responsabile di una fioritura, un'alimentazione eccessivamente ricca di latte vaccino e, sì, derivati. È stato visto e si valuta oggi sempre più seriamente che può peggiorare, slatentizzare l'acne. Cioè, se l'acne è latente, se c'è una predisposizione all'acne, può tirarla fuori o può peggiorare la situazione. Per cui io personalmente suggerisco un'alimentazione, non dico con abolizione di latticini, ma con meno latticini. Sicuramente c'è oggi, lo sappiamo, un'influenza dell'alimentazione sul discorso acne. L'acne è una malattia infiammatoria, sì. Per cui certamente ci sono determinati alimenti che individualmente, cioè ognuno ha i suoi, danno fastidio a un certo organismo e possono andare a peggiorare anche le manifestazioni visibili dell'acne. Però conosco acneici poverini che sono a dieta in bianco, solo frutta e verdura, riso bollito, e non si vedono modificare l'acne. Per cui ognuno deve un po' studiare se stesso, senza penalizzarsi troppo, godicchiando anche un po' nell'alimentazione e limitando soprattutto i latticini. Abbiamo detto che sicuramente rimettere a posto la dieta, no? Secondo dei criteri molto personalizzati può essere un aiuto, ma professor Veraldi, su le cause di questa benedetta acne, avete capito bene qualcosa, oppure anche come tante malattie multifattoriale, per cui c'entra una certa predisposizione, lo stile di vita, ma anche lo stress e quant'altro, cioè un cocktail di piccole, no, coincidenze sfortunate che segnano la nostra pelle? Allora, qualcosa abbiamo capito, abbiamo molto da capire. Io direi predisposizione familiare, non è una malattia ereditaria, ma si erediterebbe una maggiore facilità ad acquisire l'acne, questo sì. Si verifica in un 15-20% dei ragazzi. Le ghiandole sebacee, quindi le ghiandole che sintetizzano sebo, sì, di questi ragazzi sarebbero, o anzi sono, più numerose e di maggiori dimensioni. Sì. Poi c'è la presenza di un germe, ha un nome complicatissimo, Propionibacterium acnes. È un batterio che tutti noi abbiamo, ma che è presente in maggiore quantitativo negli acneici. Sì. Questo batterio ha un effetto pro-infiammatorio, quindi sì, fa diventare, parlo banalmente, la pelle rossa. Sì. Esistono dei fattori ormonali, perché l'acne compare più o meno a 12 anni durante all'inizio dell'adolescenza. Sì. E poi c'è una alterazione anatomica, nel senso che i peli ballano all'interno di un cilindro cavo, sì, che si chiama infundibolo. Mm. Ebbene, le pareti interne di questo cilindro cavo sono ispessite, si ha una iperkeratinizzazione, diciamo noi, cioè un aumento dello spessore dell'epidermide di questo infundibolo, di questo cilindro cavo. Sinteticamente questi sono i fattori principali che causano l'acne. A tutti questi c'è da aggiungere una serie di variabili, è stato già fatto cenno all'alimentazione, oppure allo stress, oppure all'utilizzo di cosmetici non corretti, oppure all'esposizione solare non corretta. Mi fa ridere Gianni che mi scrive: ho 60 anni, da giovane ho avuto l'acne, anche adesso abbastanza spesso qualche brufolo compare, ho la pelle grassa e la tengo molto pulita, ma niente, devo aspettare l'età del prossimo sviluppo. Dottoressa Serri, che simpatico, diamo anche qualche indicazione della quotidiane, come mi lavo la pelle, il brufolo, lo schiaccio, non lo schiaccio, la tentazione c'è, ecco, i punti neri, i punti bianchi, uso il trucco, non lo uso, il trucco lo possiamo usare. Allora, vero? Chiamiamo la gestione dello skin care, cioè della cura della pelle, del viso e anche del corpo, è chiaramente costruita su misura per ogni persona, per cui noi possiamo dare delle indicazioni generiche. La pelle va pulita bene, lavata mattino e sera, anche tutte le mattine. Cari ragazzi, non basta una sciacquata della faccia, questo lo dico perché in genere i ragazzi soprattutto non si lavano il viso col detergente alla mattina. Occorre utilizzare, nella mia esperienza, detergenti delicati, oppure saponette delicate, mousse, detergenti liquidi. Non aggredire l'acne col detergente, perché l'acne non è una malattia che si lava via, e bisogna evitare di infiammare ulteriormente la pelle. Nel dubbio, è meglio applicare prodotti lenitivi. Qui in radio noi non possiamo chiaramente consigliare farmaci o dare terapie farmacologiche. Infatti non vogliamo e noi parlarne. Consigliamo prodotti lenitivi che calmino questo rossore, questa infiammazione. E già la pelle può andare meglio. Poi ci si può truccare, le ragazze si possono truccare. Ci sono prodotti adatti per ogni tipo di pelle, però è importante scegliere i prodotti adatti, perché il prodotto sbagliato può peggiorare l'acne. Quindi io devo scegliere anche dei prodotti da trucco che abbiano alcune caratteristiche. Non siano occlusivi, per esempio. C'è scritto, dottoressa Serri? Certamente c'è scritto e ci sono delle linee. Io poi chiaramente, come presidente di un'associazione di dermatologia ecologica, preferisco i prodotti dermoecocompatibili. In ogni caso ci sono prodotti precisi per la pelle degli acneici, che sono oggi non tanto prodotti curativi, perché il trucco non deve curare la pelle, ma sono dei prodotti che possono essere lenitivi e quindi calmare la pelle. Parlo per esempio del mineral makeup, che è molto divertente, è nato in America proprio per chi aveva problemi di pelle, sì. No, in generale di pelle, problemi infiammatori. Adesso sta andando molto, è molto in voga tra le ragazze, gira su internet, si trova ancora in pochi posti, all'estero si trova facilmente, ed è fenomenale perché ha un'azione molto, in maniera molto naturale, maschera e contemporaneamente ha un'azione lenitiva. Dottoressa Reverso, la lasciate in silenzio in modo che lei preparasse per noi delle indicazioni pratiche dal lavandino, dallo specchio. Noi ci trasferiamo in cucina, perché anche la dieta può aiutare. Abbiamo detto che non va demonizzato alcun alimento, ma c'è una risposta individuale. La dottoressa Serri ricordava il latte, ci sono delle persone a cui il latte in qualche modo aumenta o scatena scatena dei brufolini, altri acneici, altre persone che invece il latte lo possono bere senza nessun problema. Ma prendendo gli spunti dalla dottoressa Serri, lei come medico nutrizionista che cosa ci suggerisce da mettere in tavola, quali abbinate fare? Ci racconti un po'. Allora, per me è abbastanza semplice, perché io amo tantissimo i cereali integrali in chicchi, i legumi, le verdure, la frutta. Possiamo comunque, indipendentemente dal fatto che abbiamo o non abbiamo l'acne, sostituire i latticini almeno ogni tanto con del latte di riso, del latte d'avena, che più che latte bisognerebbe parlare di bevande, quindi sì. Potremmo provare con delle bevande vegetali per preparare besciamelle, budini, sformati. È anche una simpatica alternativa, un modo diverso di assaggiare alimenti nuovi. Vediamolo come un'avventura, non come una privazione. Andiamo almeno a sentire un attimo che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, torniamo subito dopo insieme, tra poco. Dottoressa Reverso, quindi varietà, proviamo anche dei sapori diversi, qualche altra indicazione da mettere in tavola? Direi di privilegiare tutti i cibi arancioni ma anche verdi, quindi in questa stagione la zucca, tutti i tipi di broccoli, le insalate, le cime di rapa. Perché? Perché il beta carotene che è contenuto in questi cibi viene trasformato dal nostro organismo in vitamina A, e la vitamina A aiuta tantissimo contro l'acne. Ricordiamoci di associare a questi alimenti sempre dei grassi, quindi in questo caso dei grassi insaturi, dell'olio extravergine d'olivo, dei semi oleosi, perché altrimenti il beta carotene non viene assorbito. E certo. Dottoressa Serri, io vorrei uscire da casa perché voglio andare a fare una pulizia del viso. Ho l'acne, ho dei brufoli, perché per arrivare a dire che c'è l'acne ci deve essere una visita dermatologica, ma insomma ho la faccia a pizza, come lei l'ha definita. La pulizia del viso aiuta o rischio? Allora, io sono favorevolissima alla frequentazione di estetiste brave, e veramente ce n'è di bravissime, perché possono aiutare anche dal punto di vista coccola e dal punto di vista psicologico, e dare un grosso supporto al dermatologo nella compliance della terapia. Certo, bisogna scegliere estetiste brave che si rendano conto che quando la pelle è infiammata, quando ci sono molti elementi tipo pustole rosse, papule, noduli, non bisogna andare a infiammarla ulteriormente, a schiacciare e a, diciamo, torturare questa pelle. Non bisogna uscire rossi bordeaux, non bisogna farsi fare trattamenti troppo invasivi, trattamenti lenitivi, calmanti, linfodrenaggi addirittura fanno bene in caso di infiammazione. Inoltre l'estetista secondo me è un validissimo supporto quando ci sono le acne microcistiche comedoniche, cioè quando sono presenti punti bianchi, punti neri. Perché in genere le donne, anche gli uomini, se li tolgono da soli facendo dei disastri. Se tu vai da una persona che fa questo di mestiere e lo fa bene, tanto meglio. Per cui sia l'estetista, chiaramente, ma anche il dermatologo bisogna scegliere bravo, anche il commercialista bisogna scegliere bravo. Quindi sono suggerimenti un pochino così. Professor Veraldi, prima di salutarla, ci sarà una novità grossa al vostro convegno sull'acne? Secondo me più di una. Un nuovo retinoide topico, come diceva prima la dottoressa, un derivato della vitamina A. Sì. Una nuova tetraciclina orale, quindi un antibiotico orale che però ha un effetto antinfiammatorio e non antibatterico. Quindi toglie, agisce sull'infiammazione senza agire su quei batteri di cui abbiamo parlato prima, sì, proprio nei Bacterium acnes. Un nuovo peeling a base di acido salicilico al 30%. Sì. E poi degli aggiornamenti, secondo me, molto importanti su, per esempio, quali sono i prodotti e i farmaci antiacne veramente fotosensibilizzanti, cioè che non si possono usare d'estate al sole. Professore, quindi possiamo dire che ci sono delle terapie sempre più rispettose, no? della nostra pelle, della nostra salute, più mirate? Sì. Sì. Professore, allora la lascio all'organizzazione del suo convegno, ma immagino che sia tutto pronto. La ringrazio, buona giornata. Grazie, molto gentile. La dottoressa Reverso e la dottoressa Serri restano con noi e noi andiamo a salutare il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo invitata nuovamente perché la nostra iniziativa Un pizzico in meno, tanta salute in più, che Essere Benessere porta avanti in collaborazione col Mario Negri di Bergamo, è arrivata alla seconda settimana. E allora voglio che lei ci ricordi perché noi abbiamo iniziato a fare questa sorta di battaglia, o meglio questa iniziativa, e perché con proprio un pizzico in meno guadagniamo tanta salute in più. Ma abbiamo iniziato a fare questa battaglia perché i medici si sono resi conto che non abbiamo poi bisogno di tutto quel sale che mettiamo di solito. Basta ridurne un pochino, basta ridurre il sale di mezzo cucchiaino di tè, di tutto quello che mettiamo in una giornata, ed ecco che si abbassa la pressione, si protegge il cuore, si proteggono i reni. Pochi mesi fa due esperti americani hanno stimato che ridurre il sale a 5 grammi al giorno basterebbe a ridurre del 10% i casi di ictus al cervello, del 7% i casi di infarto al cuore, del 5% le morti di malattie del cuore. Sembra poco, in realtà è tantissimo. Sarebbero negli Stati Uniti 92.000 morti in meno, in Italia 23.000 morti in meno. Il risparmio per il sistema sanitario sarebbe enorme, ma soprattutto sarebbe un risparmio di vite umane. Questo è quello che poi alla gente interessa di più. Ecco perché abbiamo fatto questa campagna con voi, Un pizzico in meno, tanta salute in più, e sarebbe bello sapere se qualcuno degli ascoltatori è riuscito a mettere un pizzico in meno di fatto. Sono tanti i nostri ascoltatori che ci hanno chiesto proprio di ricevere il consiglio quotidiano. Abbiamo anche, naturalmente, la collaborazione del Mario Negri di Bergamo, che mette a disposizione i suoi esperti per rispondere via mail ai nostri ascoltatori con dubbi, precisazioni. Abbiamo anche i consigli quotidiani, tanti di questi ci vengono suggeriti dalla dottoressa Paola Reverso, che ci aiuta anche a trovare nuovi sapori in cucina. E adesso, a 15 giorni dalla partenza, molti ascoltatori mi hanno scritto che iniziano a sentire dei nuovi gusti, dei nuovi sapori che pensavano neanche di non ritrovare più. Dottoressa Reverso, perché dopo due settimane riusciamo a scoprire nuove cose? Eh sì, perché in fondo è semplice: se noi usiamo principalmente del sale, tutto sa di sale. Se invece noi ci abituiamo a usarne di meno, oppure magari qualche volta non usarlo affatto, e giocare con le spezie, con le verdure, con le erbe aromatiche, possiamo scoprire sapori nuovi, abbiamo una maggiore versatilità, stimoliamo le nostre papille gustative in modo diverso, abbiamo una sensazione di piacere diversa. In fondo, secondo me, bisogna rimanere sempre un po' bambini dentro ed essere curiosi e scoprire dei nuovi sapori, perché è bello, mangiare è bello. Allora, abbiamo ancora 15 giorni, naturalmente se ci avete ripensato e volete partecipare anche voi a questa iniziativa, un pizzico in meno, tanta salute in più, in collaborazione col Mario Negri di Bergamo, scriveteci a esserebenessere@radio24.it. Noi vi manderemo anche a casa anche gli altri consigli, perché vi vogliamo proprio coinvolgervi tutti, e poi fra 15 giorni vi invitiamo a misurarvi la pressione, torneremo ad invitare naturalmente il professor Remuzzi e misureremo, vedremo se questa riduzione, se siete stati bravi, avete seguito passo passo i nostri consigli, ha prodotto degli effetti. E io direi che dottoressa Serri, a questo punto abbiamo convinto anche a lei, per cui manderò anche sì, a lei. Sì, io stavo proprio pensando che io per esempio uso molta curcuma, che fa anche bene alla pelle, tra l'altro fa bene anche a chi ha l'acne. E effettivamente abbonderò ancora più in curcuma e diminuirò ulteriormente. E poi veniamo il sale a misurarle la pressione. Certo, va bene. Certo. Allora, un pizzico in meno, tanta salute in più. Io ringrazio il professor Remuzzi, la dottoressa Reverso, la dottoressa Serri. Voi che ci avete ascoltato e ci sostenete, a domani. Sale, un pizzico in meno, tanta salute in più. Mescolate un cucchiaio di semi di coriandolo in polvere con 5 cucchiai di erbe di Provenza e pepe verde macinato fresco a piacere. Trasferite in un barattolo di vetro e utilizzatelo per insaporire carni rosse, selvaggina, ragù, lasagna al forno, eccetera. Essere e benessere.